sfugge è oltremare, a mare si l'è sfruttato, almeno il periodo estivo in Cacciarina, da qui durante l'inverno già ci va il fratello, la sorella a controllare tutto, però l'ha realizzato bene, lo so tutti di noi, certo anche i gruppi, però sta male mi dico come si spinge, il medico dopo la bolla. Però quindi per non lasciarla buttata così col pezzo di terreno si è inventato il salgo e farlo bacco. Ma ha fatto bene, ma come vedete la sua assunta mi si fa dentrire a gli altri. E poi fuori nelle piazzole ci sono anche, in certi piazzole ci sono la roulotte, mamma mia, eppure delle tende, magari ci sono di sopra più, coppano il buio l'azienda, hai compreso? E ti ha organizzato meglio, ehi, abbiamo un giro che ci ha chiamato, pure c'è la stata una danca, ce l'abbiamo fatto vedere proprio di fronte al mare, altro che ciocca, Come c'è Maria, non si è sentito per niente? L'ho visto stamattina quando sono uscito dalle porte che poi stavo accompagnando a mia moglie di sfuggita, infatti mi ha detto mia moglie, mi ha detto Maria con la moglie, perché oggi c'era la piazzetta, no? Qua vicino al campo sportivo. Ogni mercoledì fanno la piazza lì e sta per vedere il busto, quando sono volta in questo, ma ora meglio ho troppo la cena, ma non so che dovrà andare in giro a ero accompagnare la mia moglie e dico a lui, vabbè, non ha fatto, già ve lo dico laggiù, lui non mi ha visto però, e anche io, mia moglie me l'ha detto, l'ho visto di sfuggita io, ho girato la testa, però ero già un bel avanti, fino all'incrocio. Ha detto va via tutto ed è sempre con parecchio, magari gli manca da verdura, sarà andato lì. E c'è stato mai fare campagna con Capizzo, scenderà lì con i figli, cosa ci fai in casa ormai? Tu non in campagna stai bene, c'è caldo, ne fai quello che ti fai ti piace. Non lo so, no, se ci scendeva in campagna, perché ieri già sera stavo parlando con lui fino alle 7:30 quasi, e non aveva ne deciso nulla ancora, ma ha detto di stare in campagna oppure andare a che o se li invitava la figliura di stare in paese, capito? Quando era deciso, era la settimana che cosa vogliamo fare i migliori, allora non te lo so dire, oggi non l'ho sentito. Bobo, non sei andato a Puttano Candalieri? Ciao Giulio, era perché in casa lo cantarini, Giulio. No, era poi della partita alla televisione, ma finito prima a tempo. Da poi come è stato il secondo tempo e salute per l'altra. Sì che sono più interessato alla partita. Oh, sarà più vent'anni che non gioco più andato, e sta per sempre la matessi ministra. Bum bum bum bum bum, bum bum bum bum bum, attrezza, attrezza, parata, cammina, le barruzzucchi, tutto fatto, tutto fuori, mi raggio il bossetto. Ah, se ne ha di lui batti, a parte da vedere, ne ha di pure da sorpello, da nadare, di chi si... rettangolari lunghi, sperrari, e cosa mi mangio? Senza letti. Ehi, vabbè, comunque, mi hanno dato il Matessi, non vedo problema. Sì, in effetti è sempre la Matessi cosa, noi diciamo, una cosa vita e tra vita, vabbè, è una ricorrenza di l'azienda di ogni anno, e andiamo a voi, bello, ma sono anche difficile, ma di diversa, di musica, di durante la fine dell'anno. Però quando abbiamo visto le zine e zine di voce, basta così. Ah, dopo i miei, apre il giornale, vedi, dalla prima pagina è tutto candarino. Basta che abbia di chi vedi, ha visto tutti i candarini. Bah, uia. E se non la cavalcata, sarà di 20 anni, non mi ha se non bisogna cambiare. Ma c'è stata la stessa cosa, cosa andò a fare? La gara, gli andano i giuristi che è meglio, allora fa a regare di là. Sì, è vero. Si andano i giuristi, un po' pure di là, dove c'è la riga. No, bisogna avvicinare un po' questi, che mi pare che è un po' carino che si fa tutti. Comunque, se andate, allora ho steso la televisione, mi sono messo, vedo i cantarini, insomma, sì, c'è un mini cantarini del 2013, e su piscini sono già bambini, dai, vada. Vai! No, è un mese che si bizzini, si faceva più un nipote di mia moglie, no, che sono al cambuso. E vanno i candarini, no, in piazza. Beh, sono tutti un mese, passato, ugna, santa, sera, bu, e chi ci con i candarini, mi dice candelini, no. Oh, andando ad avanti, tornando in Arezzo, girando, abbassando, sto preparando, sì, no? Bello mio, era anche pesantissimo. Sono ragazzini di qua, dal quartiere, che ogni anno lo fanno, neanche non basta venire ai zincucci, chi se no di questo giorno tre? È bello, vai, è bello. Poi, veramente, male giovani, piace di vicini, soprattutto dei vicini, come si deve andare. Poi sono mezzo addubati, non è che è una cosa fatta così, è una cosa fatta come se si tocca, pure lui si dice che andare di minori, dei vicini, dai, siamo così. Andare. No, io che avevo accogliato un mese fa, mi era passato a fare i vicini, è passato, passavano con un candarino, ma un candarino è vero, quello più è, sempre i vicini naturalmente, tutto vedo addobbato, facevano i blu, si fermavano in strada, guardavano, e io lo mastro che li dirigia, no? In modo da poterli perfezionare. E dunque, poi si sarà presentato di bulle sicuramente alla sfilata, non lo so, ma penso di sì. E le robe da a casa, un candaliere, uno non aveva fare i vestini, ma i vestini un po' come amici, no? Noi erano proprio vicinetti. E chi si l'avrebbe bravo, va bene, la verità è. Anche questi, no, che poi già scendono anche loro. Infatti, chi su Manni Bruzzi l'anno passato aveva vinto un candaliere di giù. E da bambinetto mi dà da minoreggio con un tamburello, ha cominciato, a chi lo va ben appassionato e lo porta il candeliere grande, il padre, no? È un mondatore, stato il mondatore. E andando a ricca, e allora è parato il figlio da minoreggio con un tamburello, e non ci si ne è andato, e vabbè, bravo, sono il nero zambuto. Meglio così, già lo faccio così dici. La mia moglie va, quando va per le 10 cose andano sempre vero, ma lui quando comincia a girare il gabbo, se si giovane, e a far danno, ma quando va per le 10 cose andano sempre vero, non ho problemi. Vabbè, comunque, come al solito non si intende nessuno, fa questo, ma è vero, io non voglio diversi libri, non si intende nessuno, fate la vita, me lo vuoi saccato di affedire, ma come controllare, ma che cosa controlla qua, non trovo nessuno, sai, a prendere il tempo, i tiri. Vabbè, mi sono cazzato, è finito, come mi ha detto, come sta giusto, della nazionale italiana, della nazionale dei giovani, però, e non dei grandi, dei musi. Infatti era il tenere il secondo tempo, vado lo gioco, se la giocata la battere il secondo tempo, boh. Saluti gli ha marito la nazionale maggiore, gli ha marito, saluti, sai, è più interessante. Oh, Palomanco, se no sempre se non mi ha la partita, a rubare con questo muro va a campata, a fare una passeggiata, sempre che si batte di Santa Maria, lo sa, muu, a va bimbi mu. Aspetta a vedere, Antonello, che c'è l'Antonello, il parcheggio l'abbiamo lasciato. Riprendi Antonello. Oh, Antonello, Antonello è di culo di Malassento, oggi di Sassari, e dove non state mai visto, state sempre brinchendo da un angolo all'altro della casa, abbandonando il microfono. Quando sei nei fari della Brescia, esatto, non lo so, quanto gli mi ha non lo so che faccio. Poi ci va a fare sul giretto e poi se ne rientrava. Ehi, vabbè, no, allora ancora peccato, se uno è riuscito, secondo me, che ci ricadono un poco più fresco, tanto la breccia dura per metà a mezzanotte e oltre, perché se non più uno può andare a vedere i candelieri, sai c'è la cosa più intelligente da fare, andare fresco. Andi a Santa Maria, ti preme la piazza, ti dice, ah, ieri c'è chi vede bene quando rientra, così a manco, non soffrendo manco un gallo, e tutti c'è chi vede in mezzo alla folla, in mezzo alla gente, con i tuoi con un gallo, che ti c'è bisogno di andare a sei vinto, no, no, no. No, no, cosa va giovane, cosa va pessini, o grazie. Allora, io l'ultima volta che ero andato, sarà 20 anni fa, sono andato lì dove c'era il Barbaroni, nella piazza, e ero lì di fronte vicino alla piazza della Chiesa. E basta, ma nemmeno mi hanno mai dato tutti ad andare a fare a distanza di non mangio di drummino che mi pare mi ne era andato alla una la roba che e mi ha fatto quelle bancarelle, mi ha guardato, ha separato l'unica cosa, mi ha diviso una berretta e mi sono bussato in cucina che non voleva manco un buco appuggiarsi e la poi me ne sono andato. Ah, beh, in effetti, noi ne siamo stracchi di vederli, dunque, già lo sappiamo, sono sempre i soliti movimenti, i soliti vadi, i soliti cose, sicché noi che si appassiona più tanto, ma tu li stessi, la gente che vai da pura, già sei vecchi, magari gente che la vita con qualche vota, così, ma noi avremmo visto la canzone morale, che cantarivi, oh, ya, yeah. E tanta gente, ma adesso quanti noi non andava, ma tanta gente anda pure, mai sì, ma non perché poi interessa avere manco la parata, no? Più che altro mai c'è vedere la gente così, curiosabile, vuota i tuoi dubbi sulla birra, oppure mangiare un pezzo di torroni, insomma, tutti i figuri, ecco, tanto faccio andare un pomeriggio, lo trantando e dusolando, niente di particolare comunque, la vescia è sempre ghida e basta, e avrà rimane sempre ghista, è così. Gian Maria, lo senti, no? No, ieri sera ci stavo parlando fino alle 7:30 quasi. Oggi la giudizia al mercatino, e ho il mercatino che parlo qua, ma l'ho visto di sfuggita, me l'ha detto mia moglie, e lui ha preparato e mi sono continuato ad andare a chi doveva accompagnare mia moglie. E allora non mi sono fermo, ero molto avanti, io ho visto quella cosa di luce, perché me l'ha detto mia moglie. Ed era lavorieri, un bucchi di pittura, mi pare, o frutta. E poi, poi trovati altri, magari in coci, parenti tuoi, amici tuoi, però, a me arrivi da un certo orario, non mi piace più la bella busta, quando mi era accoltato a Minise era come se era parrature, chi mi era piazza Santa Maria, aiuto, piglia le bagagli, aiuto. Ehi, ha visto sempre chi c'è davanti, chi si vuole il capo, questi magliacconi, che prima si buttano a birra e a roba alcolica, da voi mettono il controllo, mettono, e lei c'è tutta l'Italia, chissà cosa, ma che ne dai, mi sa che non vedo come è andato, non può andare mai, figurate un po' come mi si va, se mi si imbacco in mezzo a te, a te che bassoni, ohia, ma fa piacere, mi sa gente che arruineggia loro, lo stile della città e soprattutto l'educazione a privilegio della città, no? Nei confronti degli stranieri che vengono dei turisti in genere, no, lo so, poi a pagare il dai, poi a ma non sono la vetta dei cantarini, e tutti gli invece che fanno deve sempre chi tu, imbecille che sa fare, no? Ma non è, ormai è diventata una cosa normale, se non sa fare non sono contenti che si. Sono lì, si sono randaggi, sono compresi, gente bassa, gente di multinaggio, no? Noi gente seria, fa carità, io non vai a ritardi, non sarà più cavate la carina, è tanto che gente pericolosa. Pucci! Figurati che la macchina io l'avevo parcheggiata la volta vicino dove c'era quel soffio prima, lì, vicino a guardia al passaggio a livello per andare a casa. In un tragitto la più basso, da Santa Maria, arriviamo alla macchina mia, a oggi tante macchine ha giù visto, tutti con i prezzi spacciati, e furono già di dritto, un bei. Sì, perché ne approfittano, infatti, ne approfittano, ma quando sono andati i turisti, si danno, non si danno in chi in zona così, la macchina, perché è troppo pericoloso, in chi deve andare la delinquenza, va a banda, burro, non è che vanno loro abbasso la sedia, no? A avere la manifestazione, vanno soprattutto i delinquenti, ne approfittano, dicono io ho bisogno di macchine in Chivi, e allora... Sani come te lo comportamento, sani che la gente in tanti alla vista e di pure un barano dove il bare di piazza come ti muni, questi sono delinquenti e basta. No, io quando ho fatto quello, quando sono andato a vedere la filata, io ho sempre lagato la macchina in bottiglia, così al manco, dove basta, vai a piedi, muro, fai a troncatura, vai in sacca di peccio, in Chivi, via Rosello, eccetera, eccetera, e dunque arrivi muro in pochi passi, ma è una zona più tranquilla, mentre invece tu la laghi in Chivi alla Madre Santa Maria, ohia! La carità, è tutta la ciurma che vede, no, bisogna fare un mezzo attenzione, non andare, e vabbè, comunque, ci avrò ben momento in stessa via, Pucci. Giusto. Giusto, è vero, e tu non ci vai per le candeliere? Oh, io ho 40 anni che vedo candelieri. Adesso ho finito di andare a vederli. Ma sai cosa stavamo dicendo con Graziano? Dopo averlo visto tantissime volte, tanto la festa è sempre quella, non è che cambia molto, no? Anzi, non cambia niente, non è che cambia molto, non cambia proprio niente. Il 30 anni è stato lo stesso e poi diciamo che almeno per me e per tanti come me che l'hanno vista tante volte è anche una noia e se uno va a vedere non è che va proprio esplicitamente per vedere la filata ma bensì per fare quattro passi magari in mezzo alla gente prendere un po' di fresco è già diverso ma lasciamo ai turisti e alla gente che viene da fuori andare a vedere la filata che è meglio soprattutto a quell'ora che c'è il sole c'è caldo e ti arrostisci no va bene no avanti Marco K una cosa sola però è nuova ogni anno alla cavalcata i pilloi capito? Vabbè i bidui, noi li chiamo a loro i bidui e magari loro dicono a noi i bidui e tutto il mondo è paese Marco e cosa ci vuoi fare? Alla cavalcata lo so, è diversa alla cavalcata va bene infatti io non ci crederai io quest'anno sono andato a vedere la cavalcata e non ho visto niente sai cosa vuol dire niente? Perché? Perché mi sono sono intromesso in una strada dove c'era il traffico che non potevo passare con la macchina, e c'era un imbecille di vigile urbano che non riusciva a cavare i piedi, non era cavato i piedi in nessun modo. Alla fine mi sono stancato, ho trovato il varco giusto, mi sono allontanato, vai, boh, e me ne sono rientrato a casa. Capito? Sì, è stato un errore mio che ho voluto, diciamo così, avvicinarmi troppo, magari, dove c'era la sfilata, però devo dire che quel vigile era molto, ma molto indanato, molto, molto, molto. Mi prendi già dietro dopo che sono al telefono, Giulio. Ok, grazie. Avanti, Marco. Poi naturalmente come villoi, non in, volevo dire quelli della, delle bidde, no, dei paesi villoi, io lo intendo quelli che tutti quelli di bassa lega, randaggi che si azzuffano, no, i giovinastri, quelli sono i villoi, capito? Così mi ha insegnato nonna. Ok, sì, no, quella è gentaglia e basta, io quella gente lì non l'ho mai avvicinata e non la avvicinerò mai. Io le persone le seleziono, perché, non perché io sia superiore a nessuno, mi sia ben chiaro, però posso vantarmi di essere sirio, di conseguenza non posso usare in mezzo a certe persone. Ecco qual è il mio modo di pensare. Marco, ci mancherebbe altro, non va bene, no. Assolutamente. Allora, stamattina mi sono fatto una passeggiatina, sono andato, anzi, di proposito anche, da Media World, perché ieri mi si è sparato un televisore che avevamo nella tavernetta, e allora stamattina sono andato a spendere 600 euro tranquillamente così, di prima mattina, non va bene così. Sì, quando penso che 30 anni fa, 40 anni fa nei negozi di elettrodomestici c'erano anche i baracchini, adesso invece li vendono solo i negozi di nicchia, no, proprio specializzati in roba CB e amatoriale. La scarpa, mi ricordo, c'erano i baracchini nella vetrinetta, sia portatili che tipo veicolari, no? Io ho preso il mio primo portatile proprio da scarpa. Sì, prima sì, ce l'aveva anche Tonino Osai, Elettromar, mi sembra che si chiamasse, col negozio che c'era in via d'Italia, che tra l'altro è stato un mio amico d'infanzia, anche perché abbiamo lavorato insieme negli anni quando ero ragazzino, praticamente ero bambino, facevamo allora l'elettricista tutti e due, poi lui si aveva aperto un negozio di elettrodomestici lì in via d'Italia e ha chiuso, sarà un paio d'anni fa, tra l'altro ci ha lavorato molto Pomponio anche in quel negozio, che poi tra l'altro Pomponio è molto arrabbiato perché non lo pagava. Questa poi bella cosa, questa te l'ho voluto dire, Marco, e ce lo credo che sia arrabbiato. Comunque io questo Elettromar non l'ho mai conosciuto. Io ho conosciuto invece in via l'Italia, in fondo a destra, uno che forse si chiamava Usai o roba del genere. Può essere, in fondo a destra prima del distributore. Sì, è quello, Tonino Usai, Elettromar, è proprio quello, Tonino Usai. Sì, figlio di un ex autista di Pani, allora, quando Pani aveva il deposito dei pullman in via d'Umberto, io l'ho conosciuto bene perché ci conosciamo da bambini, lui sì, vabbè, ha un paio d'anni più di me, 2 anni mi sembra più di me, ma lavoravamo assieme dalla ditta alla Fiorentina in corso Vittorio Emanuele, che tu probabilmente non hai nemmeno conosciuto, era un negozio di elettricità, esattamente di fronte dove c'è la farmacia, adesso giù al corso di Pisano, mi sembra che sia con la farmacia, praticamente c'era l'Upin, il primo Upin che avevano fatto a Sassari, e noi venne al negozio di fronte, abitavamo noi, tant'è vero l'impianto elettrico di quel di quel locale, di quell'Uppini, e anche tutta l'amplificazione degli altoparlanti, eccetera, l'avevo fatta io insieme ad un altro amico, allora, perché l'avevamo di fronte, sì, che ti puoi immaginare, e dunque ci hanno preferito a fare gli impianti elettrici e anche gli impianti radio, capito? Non sapevo che fosse lui, questo Electromar che mi hai detto. Io praticamente lo conoscevo perché aveva elettrodomestici in genere, poi anche qualche baracchino, niente di impegnativo però. Ci avevo comprato due cose da lui in passato. Uno era un microfono direzionale per telecamera e aveva il LED rosso guasto. E un altro era un televisorino, mi pare, a cristalli liquidi a colori. E quello aveva una riga guasta, non si vedeva. Sì, no, vendeva un po' di tutto, diciamo, non è che aveva grandi cose in quanto a baracchini, comunque già ce li ha avuti per diversi anni, poi i baracchini ce li ha avuti anche Costantino Fara, che è morto, tra l'altro in via Principessa Maria, non credo che tu lo abbia conosciuto, io sto parlando del mio primo baracchino, l'ho comprato a lui esattamente negli anni 72, una cosa, 72 sì, sì, che ti puoi immaginare, non è oggi. E poi successivamente c'era un CB, un certo Mario M2, che lui era e penso che lo sia ancora, un tecnico di elettronica, e aveva un negozio in via dei Mameli, però salendo in via del Trento, un certo momento arriva il semaforo su e lì all'angolo lui aveva un negozio dove vendeva appunto apparati, non solamente baracchini ma anche professionali come Kimfood eccetera eccetera, capito? Allora, quello in via Principessa Maria, me lo ricordo lontanamente, ci avevo comprato un televisore a cristalli liquidi invece, anziché a colori era in bianco e nero, una cosa mai vista, della Citizen, roba giapponese, questo di fine anni 80. Poi, vabbè, Maria M2 era a fianco a casa, di fronte un po' spostato, là. Anche lì ci ho comprato baracchini, un VHF Bibang anche ci avevo comprato e aveva roba bella, poi aveva quei Kenwood 430, 140, tutti quelli là. Comunque appena arrivava il Kenwood, messo in vetrina e venduto, non durava nulla. Sì, no, allora diciamo che la gente era più appassionata alla radio, dunque era più disposta a spendere per comprare questo tipo di apparecchiature radioresistenti, capito? Pertanto, anche perché ce n'erano tante di persone appassionatissime, sassari tu, non facevi altro in tutte le strade che passavi, bastava sollevare la testa e se non in un tetto o l'altro vedevi sempre antenne per radioresistenti, capito? Dunque non è quello il discorso, ma ce ne erano diversi, poi adesso che c'è rimasto Sassari, anche vendeva anche Cineradio, quando era in via Roma, anche lui ha venduto dei baracchini, e poi chi è che li ha venduti? Fammi pensare un attimino, poi Melchioni naturalmente, Fusaro, questi negozi, no, è ovvio, la CBC, ma questi sono negozi che ce l'hanno avuti sempre. Oggi, ancora oggi, a Sassari chi c'è? Ah, in via Rosello, da Coso, non mi ricordo come si chiama, quel ragazzo che è invalido alla mano, non mi ricordo come si chiama il negozio, comunque dove in via Rosello, entrando da Coso, dal mercato, no, c'è il tabacchino, un po' più avanti, sulla sinistra entrando, c'è questo negozio, c'è... Qua mi sembra che si chiama, sì, qua. E lì diciamo che qualcosina, ne ho visto l'altro giorno anche in vetrina c'era un 790 mi sembra, sì un 790 era, poi c'era anche qualche LPD, insomma qualcosa del genere. E però non so quanto lo possa avere, ma qualcosina già ce l'ha anche lui. dici, mi ricordo che vari anni fa avevo un ricevitore in vetrina, me lo ricordo, anch'io me lo guardavo quando ero piccolo, quel negozio. Poi di negozi di Barattini, francamente, c'è stato Adriano, in Vele Umberto, e lì ci ho comprato il Multimo dei tre, il Viking 2, mi ci avevo comprato, avevo preso la mia prima antenna, la Sigma GPVR, me lo ricordo benissimo, e avevo preso il cavo RG58 bianco, però quello nautico, in modo che in facciata non suonasse troppo. Sì, e quello sì, quello era sull'alto, via Umberto, ma vendeva soprattutto apparecchiature per la nautica, vendeva, e lì ci lavorava, aspetta come si chiama, Tore Chopin, un vecchio CB, uno che della frequenza della 27 era malato, perché non spegneva mai il baracchino, nemmeno la notte, lui ce l'aveva impostato, ce l'aveva, e a quell'ora la mattina gli lo svegliava e lui era già attaccato al baracchino, 24 ore su 24, capito? E dunque sì, me lo ricordo bene, e adesso ce l'ha ancora un baracchino, perché qualche anno fa, sarà un 2-3 anni fa, lui aveva un baracchetto, ho detto giù, non so se funziona, mi fai la cortesia di provarlo a casa per vedere se funziona? Vabbè, dammelo, me l'ha dato, l'ho provato, poi glielo ho riportato subito, sì funziona, e dice mi piazzerò l'antenna, però non sarà mai piazzata, e abita lì nei paraggi del Sacro Cuore, di vicino, gli avevo, perché prima abitava via Gassereda, poi gli avevo dato la casa, gli avevo dato l'ente popolare e abita nei paraggi del Sacro Cuore e vive solo, perché prima lui era con la madre, tanto non è sposato, non è niente, adesso purtroppo la madre è deceduta e allora c'è rimasto solo lui in quella casa, capito? Me lo ricordo Tore Chopin, e lo chiamavano certi Tore Sciunfiato, me lo ricordo, l'ho conosciuto di persona, e ricordo comunque riguardo ad Adriano, mi ricordo che Adriano aveva baracchini, no? Molti. Dopo Adriano è subentrato Marco Michi e lui faceva soprattutto roba navale, comunicazioni per imbarcazioni. Sì, infatti, sì, ma io ci andavo, intanto lì, anzi una volta mi sono trovato con vari CB facendoci una passeggiata, eravamo più o meno in questo periodo, lì, vicino alle prossime alle fedi, diciamo, e avevo trovato vari CB, avevo trovato un certo Luna Rossa, avevo trovato un ex uomo grande, avevo trovato Luisito, non lo ricorderai Luisito, poi avevo trovato Renato Sigma, credo sia morto lui adesso Renato, qualcuno mi ha detto che era morto, non lo so adesso, comunque, e poi c'era anche un'altra persona, e già ci siamo anche fermati, ci siamo, sai, com'è? Quando ti incontravi con Luisito era una pacchia, nel senso che ridevi a crepapelle perché ti faceva ridere nel modo come parlava, capita. Non è che era una persona molto istruita, perlomeno parlando l'italiano era e quante per no. Insomma, diciamo che faceva ridere, e allora la gente, però era una bravissima persona, sinceramente, era veramente una bravissima persona. Comunque, ormai anche lui purtroppo, dopo tanti anni di lavoro, è scomparso. Avanti, Marco. Vediamo se è entrato Graziano. Attenzione Graziano. Ancora al telefono. Ancora al telefono, capita. Quello lì si sta mangiando la fetta d'anguria adesso. Guarda, non credere a quello che dice, perché lui dice il telefono per andare a farsi una bella mangiata, altro che era futiedo. domanda, c'è la pupugna, molto sì. No, non deve prendere nemmeno con un pugno, forse è uscito anche lui. Pazienza. Vabbè, tu che intenzioni hai? Di farti una passeggiata oppure te le mani a casa? Io me ne sto a casa. Quando la daranno in TV non ne guarderò nemmeno, perché tanto la cavalcata è sempre quella. Non voglio caldo, non voglio rescia, non voglio sentire a bulotto, ma sto bene qua in casa col ventilatore. Baccarelle tanto sono molto relative poi, iauia. Stavo dicendo, dei negozi e baracchini ormai sono sopravvissuti GVC, che vende un po' di tutto, Fusaro che vende qualche baracchino, della Polmar, sì. E poi esisteva Melchioni, che però una volta era in Viale San Francesco, mi pare, ed era caro, ma caro come il sangue per i baracchini. Poi si è spostato a Prevagnetta e adesso mi hanno detto che forse sta chiudendo Melchioni, è vero? Ma io ho visto che Melchioni, io ci sono andato tempo fa per chiedere che cosa, non mi ricordo che cosa, a uno filotto per un microfono che dovevo fare lo spessore per non cambiare lo filotto, anche perché il microfono lo uso nei vari baracchini, no? E dunque mi avevo fatto lo spessore e non ce l'aveva. E mi ha detto, dice, no, questo qui dice, deve essere uno filotto particolare. Che particolare, se è attaccato a un microfono di 20 euro, che particolare, non è che di un malattino, e uno dice non ce l'abbiamo, e vabbè, lascia perdere. Sono andato da Fusaro e l'ho comprato lì, niente lì, senza nessun problema. E stavo dicendo, non aveva fatto quel negozio un suo dipendente, perché Melchioni in realtà è una grossa ditta. Tra l'altro penso che ci sia ancora il negozio a Porto Torres, perché anche a Porto Torres c'era Melchioni. E prima era in quel capannone dietro, sì, diciamo, adesso si è spostato in un'altra posizione, ma quando entri lì, guarda, si entrano in una grotta, perché nemmeno la luce accende, è tutto al buio, proprio ha tipo randaggi, mire, di quelle persone che di attività non ne sanno portare avanti, capito? Marco. Ecco, quindi quello con la barba non c'era più, e ti parlo di 20 anni fa, non c'è più quello con la barba, famoso, no? Ma è proprio lui che ce l'ha il negozio, chiamato Melchioni, che poi non credo che sia più Melchioni, perché se l'ha rilevato lui non è certo Melchioni, è un ex dipendente di Melchioni eventualmente, e ce l'ha lì lui. Ma certo, lui, ripeto, sembra che ha le stesse sembianze di una lotta quando entri dentro lì, tutto al buio, senza accendere la luce, ma quando mai un negozio? Io posso capire, stai appena aprendo, stai preparando, stai allestendo tutta l'illuminazione, eccetera, ma proprio nel reale di punta, niente, sono entrato al buio, e lui era al buio, là dentro, quando mi ha detto che stava arrivando, ci ha impiegato un quarto d'ora per presentarsi al banco, gli ho fatto lì sono andati un blu, non c'è niente da fare, comunque, stai tranquillo che già non ci andrò molte volte. No, ma qualcosa dovrebbe avere grassi, penso, grassi lì a Predanienda, suppongo che qualcosa ha, però grassi era forse uno degli unici negozi che vendeva anche a prezzo più basso, perché prima, perlomeno, quando era dall'altra parte di Predanienda, era in pratica un grossista e dunque vendeva, in un certo senso vendeva l'ingrosso, vendeva. Adesso invece nella strada dove c'era una volta Portobello, non so se nella curva, adesso Portobello non c'è più, si è spostato più avanti, verso la parte del mercato dell'ingrosso, ma penso che tu l'abbia conosciuto Portobello lì, e lui lì a 50 metri dove era Portobello, grazie. Cappa, confermo. Allora, quando era nella sede vecchia, vendeva anche al dettaglio, non so se lo facesse legalmente, però lo scontrino lo rilasciava. Anche adesso vende sia all'ingrosso che al dettaglio, però il difetto suo è che per esempio la roba Intec la fa pagare a prezzo di listino, quindi cara. Ti faccio un esempio, allora, quei portatili PMR LPD, no? All'epoca io l'avevo pagato 88 euro l'uno, tre anni fa, no? 3-4 anni fa, 88 euro l'uno. Adesso, sai quanto costa il prezzo onesto da eBay? 55 euro. Sì, ma io trafugando al computer ho trovato anche a prezzo più basso, anche di 55, addirittura 40, 46 euro. Sì, è abbastanza discreto, bellino anche, ma comunque, vabbè, ma a parte quello, ma non so cosa dici per quanto riguarda la classe, perché io guarda, ci sono andato tempo fa, ci sono andato e mi sono comprato lo stagno per soldare. E poi ho comprato anche un interruttore per montacarichi che ho comprato, che quando arriva alla fine della corsa questo montacarichi si stacca automaticamente, no? Ho girato tutte le cose stesse, sono saluto, non sai che ce l'aveva, e l'ho comprato, e devo dire ho pagato la miseria. Allora ho chiesto così, per curiosità, gli ho chiesto, ce l'ha l'antenna per la 27 Mantova, ce l'ha fatto, dice abbiamo la Mantova U, la Mantova Turbo, perché la Mantova 5 non la stanno più costruendo, la Mantova 1 tantomeno, però noi abbiamo la Mantova Turbo. E cosa costa così, per curiosità? Ha guardato al computer, 111 euro. Caspita, fatta. Io pochi giorni prima l'avevo pagata 115 da cotilette, cosa vuoi che ti dica, oh Marco? Tu mi dici, non so cosa dirti Marco. Sì, la Mantova Turbo sta, vediamo, sui 120 più spedizione, di solito sono 10 euro, 115, 120, chi la vende anche a 130 è che è più caro. Poi conto una cosa, allora certi negozi ti fanno pagare con carta di credito e fin lì tutto bene, no? Perché paghi la spedizione e boom. Invece certi negozi vogliono essere pagati col bonifico bancario, no? E hanno anche le spese di spedizione alte. Ti faccio un esempio, un certo negozio che c'è in Toscana, no? Quando compri qualcosa, le spese di spedizione sono di 15 euro, anziché 10. E poi il pagamento lo vuole col bonifico bancario. Allora il bonifico bancario mi costa 6 euro. Quindi alla fine le spese di spedizione in totale salgono a 21 euro. È troppo. Beh sì, in effetti no, io ripeto, 115 invece addirittura senza spese di spedizione gratis dalla cosa, come si chiama? Bah, accidenti, magic phone, 115, la Mantova Turbo, originale, quella Sigma originale, ma anche quella di Micchioni, è originale anche quella, 111, e ce l'hai già a Sassari, adesso se, però ne avevo solo una, adesso non so se ce l'ha venduta, io questo non te lo so dire, te lo predici, ne avevo solo una, al momento c'era, ne avevo solo una, 111 a Sassari, mentre la Magic Phone 115, compreso la spedizione, che vedi bene. Poi naturalmente ci sono negozi dove ho potuto constatare anche 130, 140, dipende dai negozi, mi sembra la stessa antenna, no? È un po' come la Game Master, è lo stesso, tu da quel negozio che ti ho detto, da Magic Phone, costa 169, no, 159, 160 diciamo, dai, circa, manca qualche euro a 160. Mentre invece addirittura il negozio addirittura 225 euro, ti puoi immaginare, la stessa antenna. Poi ho trovato un sito che è inglese, è sempre la stessa antenna, 80 dollari. 80, sì, 80 dollari. Era scritto in dollari, strano però, che non capisco per quale motivo non è scritto in sterline, perché in Inghilterra c'è la sterline, no? Sì, in Inghilterra c'è la sterlina. E infatti ho idea che dovrebbe essere sterline. Ma magari ti è capitata la pagina, diciamo, di eBay America, non so. Comunque tu questa mandola turbo, la Magic Phone, quanto tempo fa l'hai presa? Diciamo che saranno non 2 mesi e mezzo, una cosa del genere, 3 mesi massimo. E poi tra l'altro non l'ho mai montata, non l'ho montata per la tagliare il ponte, tra l'altro. Doveva tagliare un po' di tempo. Sì che ti puoi immaginare. Ma è così, così, è così. È strano Giulio, perché proprio da Magic Phone è il negozio di cui ti parlavo. La spedizione costa 15 euro, l'ho già provata perché ho comprato 2 baracchini, no? Uno 2 anni fa e uno, diciamo, 8 mesi fa, un anno fa, da. E costa 15 euro, più il bonifico 6 euro, totale 21 euro, forse a te ti ha fatto un prezzo di favore. No, probabilmente era un momento che c'era un'offerta speciale, perché mi ricordo di aver letto anche che la spesa superiore ai 100 euro erano esente dalle spese di spedizione. Bisogna vedere cos'è che hai comprato tu anche, bisogna vedere se superava quella cifra. Mi ricordo così, adesso non vorrei dire una fesseria, però se ricordo bene era così. Allora era in offerta l'antenna, io ho preso un baracchino 2 anni fa, ne costava 245 euro, più 15 spedizioni, più 6 euro di bonifico. Poi invece l'altro baracchino costava 75 euro, sempre, più 15 spedizioni, più 6 di bonifico. Quindi comprare da lui oggetti, magari piccoli oggetti, non conviene, perché devi pagare 21 euro in totale di spese. Metti che debba comprare, che ne so, 50 euro un rosmetro, no, alla fine mi viene a costare 71 euro. Beh, non te lo so dire, però se gli fai naturalmente il bonifico è ovvio che c'è la commissione che la banca ti fa pagare, questo lo sappiamo, ma io guarda che avevo richiesta tramite contrassegno, dunque non nessun bonifico, niente, pertanto era così, capito? Se tu mi dirai, ma se io gli faccio un bonifico ho una garanzia maggiore, sì, d'accordo, perché dentro la scatola ci può essere anche un mattone, tanto per il nostro piraggio, no? Ma non credo, perché una ditta del genere non si sfruttava in nessuna maniera. Un mattone te lo puoi trovare, come ti è successo tra l'altro quando è comprato da un privato che tra l'altro non ti offre nemmeno nessuna garanzia, ma una ditta che esiste così, con tanto di partita IVA eccetera, quella è una ditta affidabile, capito Marco? Eia, quello può succedere se qualcuno delle poste, come già è successo, apre il pacco piano piano in modo particolare, si prende la roba, mette il mattone e poi lo richiude con del nastro simile. Allora può capitare, ma insomma è un po' raro, ecco. Poi di pacchi ne girano tanti. Sì, io ho pagato sempre col bonifico e mi pare che non ci fosse altra forma di pagamento per quel tipo di piccoli che ho preso io. Infatti, insomma, poi una cosa, Magic Phone, a differenza di tutti gli altri, quasi tutti gli altri negozi di radio e elettronica, non ha il sito eBay, non ha messo il negozio eBay per sveltire anche le spese, no, lo compri in Paypal. Invece, per esempio, Tecnocomunicazioni c'è il negozio eBay, poi molti hanno il negozio in eBay. Praticamente paghi con PayPal, paghi solo la spedizione e tutto finisce lì, capito? Sì, no, ma quando si tratta di una ditta seria, no? Vabbè, poi 5 euro in più, 5 euro in meno, non è una storia di bonifico. Sì, tu mi dirai, ma 5 euro perché li devo dare? Ma se per quello l'altro giorno, guarda, mia figlia ha dovuto farsi un'assicurazione, perché adesso per i professionisti, perlomeno nella categoria di mia figlia, gli hanno chiesto per obbligo, l'imposta dallo Stato, un'assicurazione obbligatoria. E questa assicurazione gli è costata 150 euro. Però il bonifico addirittura per questo tipo di assicurazione la banca gli ha sottratto oltre 11 euro, oltre 150, per dire, no, vabbè, tu mi dirai, purtroppo è così, comunicazioni, ho comprato diverse cose, non poco, ho comprato, penso fatte arrivare due Galaxy Saturno Echo nel corso del tempo, no? E poi avevo fatto arrivare un AOR 1000 che costava 749 euro, costava sempre tramite contrassegno, poi l'ultimo acquisto che ho fatto, ho preso il TS2000, la cosa che questo qua, il TS2000, e avevo comprato anche negli anni passati, io parlo di 25 anni fa, il TS140, 2.220.000, avevo sempre contrassegno, e per dirti, il TS2000 l'avevo comprato, l'avevo modellato io, l'avevo fatto arrivare da me in bottega per Emanuele Buonanima, che poi è morto 2 anni fa, ma per dirti, siccome non c'è stata mai una fregatura, è stato tutto perfetto, tutto liscio, tranquillo, senza nessun problema, capito? Quando arrivava il contrassegno, pagavi e ciccia, tutto lì. Eia, io nei negozi che lo prevedono preferisco carta di credito sempre, non so perché. Pago prima, magari parte anche prima il pacco, una volta che hanno i soldi. Sì, beh, io vado a bere un pochino, e magari entro fra un po'. Ok Marco, d'accordo. Va bene, adesso io metto il volume della televisione, perché nel frattempo stiamo anche guardando il secondo tempo della partita dell'Italia, che sta vincendo tra l'altro, Italia dei giovani però, Under 21, 4-1 sta vincendo. Va bene Marco, eventualmente se mi chiami può darsi che sono ancora all'ascolto. Ciao, ciao Marco. Ok, ciao. Nel caso che non ci sentiamo, va bene, ritieniti salutato. Peraltro mi sembra che stasera ci sia un'altra partita, no? La nazionale però regolare, no? Sì, c'è la nazionale maggiore, sì, la nazionale A, salute alle 9:15, e devo dire che me la guarderò nel nuovo televisore da 42 pollici che ho comprato stamattina, dunque, di gusto, un bel televisore, mi piace molto, delle immagini veramente belle. Va bene Marco, devi bene, salute, alla tua salute, bevo anch'io con Marco, va bene, se mi chiami, buonasera che sono all'ascolto Marco, ci sentiamo, ciao, e tieni salutato anche tu, eventualmente se non dovesse succedere di